Benvenuto su Rock FM dalla voce di Marco Gravelli, secondo appuntamento della settimana, quarto con la replica del giovedì, quindi siamo nella giornata del martedì sera con lo spazio di Arden Devi offerto da Mariposa Dischi, Corso Lodi numero 1 a Milano, sito www.mariposadischi.it, nonché il saluto come sempre al nostro autore Simone che ha preparato le news, ha preparato le note biografiche, la tracklist di questa sera che ci permette di partire con una band americana, esattamente di Philadelphia, una band che risale alla seconda metà degli anni 80 quando era in voga diciamo il glam rock. Si parla e si ascolterà la band dei Britney Fox, leader del gruppo e chitarrista Michael Kelly Smith, ex Cinderella, che ha creato questa band nell'85. Dopo un'intensa attività live, registrano un EP nell'86, che si intitolava In America, che gli permette di ottenere un contratto con una major, e l'etichetta in questione è la East West Record, una sottoetichetta della Warner Bros. Registrano le tracce dell'EP, oltre a nuove tracce pubblicano il loro album d'esordio ufficiale nel 1988 con l'omonimo album che ottiene subito un ottimo successo, tanto da diventare disco d'oro in America. Dopo un tour di Spall Like Poison, aver suonato in Giappone, pubblicano il secondo album nell'89 dal titolo Boys in It, le cui vendite però furono inferiori all'esordio. Partono poi in tour con Alice Cooper. A causa di divergenze musicali, il cantante Davison lascia la band. Al suo posto entra Tommy Paris, che effettua il suo esordio nell'album Bite Down Hard, che non ottiene un grande successo perché arriva in quel periodo il sound della musica grunge. Pertanto la band nel 93 si scioglie per riunirsi 6 anni dopo, nel 99, per diverse date dal vivo e registrare un live album. Nel 2003 è uscito il loro quarto e ultimo album in studio, band attualmente ancora attiva sul mercato americano. Noi dal loro ultimo lavoro, perlomeno il terzo della parte degli anni 80, Bite Down Hard, andiamo ad ascoltare il brano d'apertura Six Guns Loaded, dove come special guest alla chitarra c'è Zakk Wylde, sono i Britney Fox. We'll be right back. Gunloaded, sono i Britney Fox, dal loro, diciamo, ultimo album della fase, quella vera e propria tosta degli anni Ottanta. La solo finale era appunto di Zakk Wylde. In quest'album l'ultimo pezzo, che si intitola Midnight Moses, è una cover di Alex Harvey, una band molto glam soprattutto nel look. Alex Harvey Band, band inglese, loro hanno coverizzato proprio un motivo su questo Buy Down Hard. Dalla sound glam rock dei Britney Fox rimaniamo in America con un sound decisamente più heavy metal per questa cult band, una band dove alla voce vi era una bella fanciulla che si chiama, il vero nome è Anne Hull, come nome d'arte ha scelto Anne Boleyn. Il gruppo è quello degli Hellion. Dopo alcuni demo colgono l'attenzione di Ronnie James Dio e di sua moglie Wendy, che è anche una manager, tramite la quale ottengono un contratto con la Music for Nation. La formazione è composta da quattro elementi, ripeto, con la voce femminile. Dopo la pubblicazione di un omonimo EP nel 1983 ci sono diversi cambi di line-up e l'esordio vero e proprio arriva nell'87 con questo album che si intitola Screams in the Night, considerato il loro lavoro migliore, dove alla batteria c'era anche Greg Pecca, che è stato il primissimo batterista dei Dokken, anche se con loro non ha mai inciso nulla. Dopo un nuovo EP nel 90 arriva il secondo album The Black Book. Successivamente la band si scioglie, si riformano nell'88, pubblicano un EP nel 99. Il terzo e ultimo album arriva nel 2003, si intitola Will Not Go Quickly. Ma dal loro album migliore, il già citato Screams in the Night, andiamo ad ascoltare l'omonimo brano. Sono gli Hellion. Go! voce femminile di Anne Boylan, il cui vero nome è Anne Hall, per gli Elion, dal loro album Screams in the Night. Le note sono proprio quelle di Screams in the Night. Ritorniamo ai giorni d'oggi, ancora con una band italiana, come ieri sera, una band che nel mese di giugno ha pubblicato questo secondo album, gruppo di epic metal, composto da quattro elementi che tornano dopo il loro... hanno pubblicato un paio di demo, poi il loro primo album, Carmina Barbarica, è pubblicato per un'etichetta greca, dato che proprio in Grecia hanno un buon seguito e ottengono buone recensioni in tutta Europa. Questo nuovo album, uscito a giugno, si intitola Epos, ci sono 11 brani, e come special guest in due tracce presente l'ex chitarrista e cofondatore dei Manowar, Ross the Boss. Il pezzo che vi propongo è quello che apre l'album, l'album Epos, Drinking the Skull of Your Father, Votan. Sockets, green steel, one testament to the sky. Where's the blue light of your eyes and the wisdom of your smile? Be my whole life a script, temple of the hate. Mercy is dead, vengeance awake, and never forget its words. The vengeance, or the fate, for my father's sword. Like a fever in my soul, hold a demon without rest. Implacable fire burns, it consumes me. I cannot forget until the last breath the terrible words he said. Drink! Titolo Drink in the Skull of Your Father, dal loro lavoro il numero 2 della produzione dei Votan, si intitola Epos e ripeto, in due tracce suona Ross the Boss, ex chitarrista e cofondatore dei Manowar. La prossima band ci permette di andare in Inghilterra, una band di hard rock, precisamente di Londra, con tre album alle spalle, si chiamavano Girl. Da segnalare che in line-up c'erano il cantante Phil Lewis, che entrerà poi negli LA Guns, il chitarrista Phil Collins, che sostituirà nei Def Leppard, lo scomparso Steve Clark. Il gruppo fu creato dallo stesso Phil Lewis nel 78, dopo aver suonato in Europa di spalla agli UFO, arrivano all'esordio con quest'album Sheer Greed del 1980. Numero 1 in Giappone, quest'album è numero 33 in Inghilterra e andarono in tour di spalla ai Kiss. Vi è anche una cover dei Kiss che ascolteremo tra breve. Curiosità è che sempre nell'80 Phil Collen fu selezionato come nuovo chitarrista degli Iron Maiden, nel caso Adrian Smith avesse rifiutato, ma non ha rifiutato e quindi non è entrato a far parte degli Iron. Il secondo album si intitolava Wasted Youth nell'82 e andarono con quell'album di spalla a Ozzy Osbourne. Nonostante ciò, alla fine dello stesso anno la band si scioglie. Sempre nell'82 i Girl avevano registrato un terzo album dal titolo Killing Time, si dice con le canzoni scartate dai due lavori precedenti. Ebbene, quest'album è stato pubblicato solamente nel 1999, ben 17 anni dopo. Vi dicevo appunto che nel loro esordio Sheer Greed vi è una cover dei Kiss che si intitola Do You Love Me? Vuoi dire che i Kiss li hanno scelti come supporter perché hanno inserito questa loro cover nell'album Sheer Greed? Ma può darsi, ci può stare tutto. Era appunto Do You Love Me per i Girl dal loro primo album. Un'altra band storica arriva dal Galles, formazione a tre, nati addirittura nel 68. All'inizio proponevano un sound hard blueseggiante, modificato poi in un heavy metal nella seconda fase degli anni 80. Poi si sciolgono nell'84. Si chiamano tuttora Budgie. Il gruppo che è ancora in attività, ottengono un contratto con la MCA negli anni 70, arrivano nel 71 l'omonimo album d'esordio, poi i lavori successivi sono quelli più importanti per la fase degli anni 70, si intitolavano Squawk nel 72, nel 73 Never Turn Your Back on a Friend, considerati appunto i migliori lavori della band degli anni 70. Andarono in tour in quel periodo con i Judas Priest. In occasione del quarto e quinto album c'è da segnalare un doppio cambio di batteria. La band si scioglie nell'84 dopo la pubblicazione di Deliver Us From Evil e il relativo tour di supporto Ozzy. Successivamente si riunirono negli anni per alcune sporadiche date dal vivo e pubblicarono due live album, fino allo scorso anno, quando dopo ben 24 anni è uscito un nuovo album dal titolo You Are All Living in Cuckoo Land, dove l'unico membro storico è il cantante e bassista Barkey Shelley. La loro album Power Supply, quindi la fase un po' più metallosa del loro sound, andiamo ad ascoltare il motivo dal titolo Heavy Revolution, Budgie. Per questa band tutto sommato storica, con tantissimi album alle spalle, dal Galles, nati nel 68, dall'album Power Supply abbiamo ascoltato Heavy Revolution. Ritornato su etichetta Frontiers Record l'ex cantante dei Danger Danger, cioè Ted Polley, con questo suo album nuovo, un album con 12 canzoni, dove troviamo alla chitarra J.K. Northrup, ex King Cobra, il tastierista Eric Ragno dei Takara e Dan Zoida alla batteria. Ci sono 12 canzoni. Il lavoro si intitola Smile, un sound molto AOR melodic rock. In effetti abbiamo scelto questa ballad dal titolo Where It Ends per chiudere la prima parte del nostro appuntamento di martedì di Hard and Heavy. Ted Polley. breaking skies, look down on me tonight. In worn out leaves falling to the ground, searching empty place. Siamo entrati nella seconda parte del nostro appuntamento di Hard and Heavy per questa serata di martedì. Ricordo naturalmente che poi viene replicato la puntata odierna il giovedì, così come quella del lunedì viene replicata il mercoledì. Venerdì puntata completamente nuova, suddivisa in due parti, hard la prima, metal la seconda, dedicate ai live album più importanti della storia dell'hard rock e dell'heavy metal. Inoltre ricordo l'opportunità e la possibilità di poter riascoltare tutte le varie puntate di Hard and Heavy tramite il nostro sito www.radiorockfm.com. Entrate nell'archivio programmi, cliccate su Hard and Heavy, scegliete la data che volete e vi riascoltate l'intero programma. La band che abbiamo appena ascoltato dal cantato femminile arriva dal Canada, più precisamente da Toronto, composta da 6 elementi. Si chiamano The Birthday Massacre, perlomeno questo è l'attuale nome. Al principio si chiamavano I Magica. Dopo 2 demo a metà del 2002 lo cambiano in questo The Birthday Massacre e si autoproducono l'album d'esordio Nothing and Nowhere, che viste le numerose richieste verrà ristampato nel 2004 con una nuova copertina. Il secondo album, Violet, è uscito nel 2004, è sempre un'autoproduzione. Grazie però a questo lavoro riescono a trovare un contratto con la Metropolis Records, che ristampa l'album Violet e ne pubblica questo nuovissimo Walking with Strangers, che vede la presenza anche di un nuovo batterista. Abbiamo ascoltato quello che era il singolo dell'album, Red Stars. La prossima band invece la consigliamo a tutti coloro che amano ancora il buon thrash metal di stampo americano, quello ad esempio dei primi Metallica, perché il loro produttore è niente poco di meno che Flemming Rasmussen, che ha prodotto Ride the Lightning e Master of Puppets. Loro si chiamano Evil e l'album di debutto per questa band è inglese, composta da 4 elementi, nati nel 2004 grazie ai due fratelli Drake, uno cantante e chitarrista e l'altro chitarrista solista. Al line-up ultimata, con l'ingresso di un bassista e batterista, suonano cover in vari locali, registrano 2 demo e ottengono anche la partecipazione a diversi festival estivi nel 2006. Grazie a questo arriva il contratto discografico con l'Erak Records, che ne ha pubblicato da poco questo Enter the Grave, dal quale noi andiamo a proporre le note di Thrasher. Arriviamo anche per questa sera al consueto appuntamento con le Metal News. Si inizia parlando dei Norther. Black heavy metal band finlandese ha stipulato un contratto con la Century Media, che pubblicherà il prossimo nuovo album nel febbraio dell'anno prossimo. L'album è già praticamente pronto, non c'è ancora il titolo. È stato prodotto da Ensi Kippo, che ha già lavorato con Children of Bodom presso i suoi studi, ed il mixaggio è stato effettuato dal famoso Frederick Nerstrom. Ho citato i Children of Bodom. Il nuovo album uscirà il 7 di aprile, il sesto per questa band anch'essa finlandese. Il lavoro si intitolerà Blood Drunk. Il nuovo album invece dei Revenge è stato completato. Il gruppo arriva dal Canada, si intitolerà Infiltration Downfall Death, si comporrà di 6 tracce, anche in questo caso andiamo nel 2008 a livello di pubblicazione. Marzo del 2008 per il nuovo lavoro della Christian Band americana degli Striper, 14 canzoni, delle quali due sono tratte dall'album solista del cantante Michael Sweet e una è la cover di Peace of Mind dei Boston, per ricordare, suppongo, il cantante Brad Depp, morto recentemente nel mese di marzo. Arriviamo ai Machine Head, band americana, è stata premiata con l'album internazionale dell'anno ed è naturalmente il lavoro più recente della formazione, cioè The Blackening. Tutto questo avviene ai Danish Metal Awards del 2007, che si sono tenuti lo scorso 17 novembre a Copenaghen. Il loro ultimo album gli ha permesso di vincere questo premio, è uscito, lo ricordo, nel mese di marzo di quest'anno. Inoltre, i Machine Head suoneranno il 6 dicembre a Alcatraz di Milano per un mini festival, The Black Crusade, insieme ai Trivium, Dragon Force, Arch Enemy e Shadow Fall. Ed è proprio da questo loro ultimo lavoro che andiamo a proporre le note di Beautiful Morning Machine Head. congratulazioni quindi ai Machine Head, The Blackening, questo loro album gli ha permesso di vincere il Danish Award come miglior album metal dell'anno proprio in Danimarca. Abbiamo detto da poco questa notizia, li abbiamo ascoltati, passiamo alla prossima band che presentano i piuttosto noti e prestigiosi. Il gruppo si chiama Empire, a un anno e mezzo dal precedente lavoro The Raven Ride, questa settimana esce il quarto album dal titolo Chasing Shadows. Questa è una progel metal band americana con Rolf Munks, chitarrista leader di questo gruppo, che è anche chitarrista dei Majesty oltre che dei Razorback. Questo progetto ha sempre visto nomi importanti della scena metal che risale alla fine degli anni 90. In tema di line-up, l'unica riconferma rispetto al precedente lavoro è il bassista Neil Murray, che ha già lavorato con i Black Sabbath e gli Whitesnake. Sono entrati dei nuovi grandi nomi. Alla voce c'è Dougie White, Jacob Malmsteen ed ex Rainbow, che va a sostituire Tony Martin. Alla batteria c'è Mike Terrana dei Masterplan e Savage Circus, che ha suonato anche nei Rage, Malmsteen, Artention e tantissime altre band. Infine l'album è stato registrato presso gli studi personali di Rolf, cioè gli Empire Studios, da qui anche il nome del gruppo Empire. Il pezzo che vi presento si intitola Mother, Father, Holy Ghost. Chasing Shadows è il titolo dell'album, sono gli Empire. Yeah. Un hard rock di maniera, del resto abbiamo detto nomi prestigiosi, Dougie White, Neil Murray, Mike Terrana e appunto Rolf Mankes. Empire, il nome del progetto musicale, Mother, Father, Holy Ghost, il titolo del pezzo da questo album, dal titolo Chasing Shadows, proprio questa settimana nei negozi. Già da tempo nei negozi il terzo album dei Down, che si intitola Down 3 Over the Under, forti del contratto nuovo con la Roadrunner Records, che ha pubblicato questo lavoro, questo terzo album. Naturalmente in questa band sapete tutti che milita come cantante Phil Anselmo, già cantante dei Pantera, il chitarrista Pepper Keenan dei Corrosion of Conformity, il bassista Rex Brown, già ex Pantera, il chitarrista e il batterista dei Crowbar. Nato nel 1991 come così progetto estemporaneo per divertirsi, hanno registrato un demo, questo demo ha cominciato a circolare, si è cominciato a parlare di questo gruppo, alla fine arriva un contratto con l'Elektra che gli permette di pubblicare nel 95 il primo album Nola. Il secondo arriva nel 2002, 7 anni dopo, si intitola Bustle in Your Head Garrow e arriva al numero 44 in America. Dopo 5 anni è arrivato questo Over the Under, del quale questa sera ascoltiamo le note di Path. Yeah. Stuff dal terzo album per la formazione dei Down. Siamo in addirittura d'arrivo con la prossima band abbastanza quotata in Svezia. Sono arrivati con questo Burnout Boulevard dal loro quarto album, si chiamano The Bones. Li ascolteremo con il singolo Flatline Fever. Vi lascio con le note di questa canzone, vi ringrazio come sempre per lo spazio trovate ogni sera per potermi seguire e ascoltare Hard and Heavy, lo ricordo, da lunedì al venerdì dalle 20 alle 21 su Rock FM. Un grazie come sempre a Simone, il nostro autore, nonché allo sponsor Mariposa Dischi. Vi lascio con il resto dei nostri appuntamenti e con i The Bones. A domani, ciao ciao. Right back at you.